Due giorni fa, in piazza San Pietro, il 17 aprile di questo 2019, Papa Francesco ha incontrato una ragazza ormai famosa a livello planetario, Greta Thunberg. Avrete sentito questa ragazza che ha cominciato un movimento di rivolta degli studenti contro i cambiamenti climatici. Sta mobilitando, almeno apparentemente, poi si vedrà il risultato, sta mobilitando mezzo mondo, non solo di ragazzi ma anche di adulti, perché dice che è in atto un riscaldamento globale della Terra al quale bisogna porre rimedio, altrimenti sarà lo sfacelo. E sta cercando di ripetere quello che in teoria tutti sanno, e cioè che il consumo dissennato delle risorse energetiche umane sta riducendo la Terra a brandelli. Il Papa, incontrandola, l'ha incoraggiata e le ha detto: vai avanti, sappiamo che Papa Francesco è sensibile a questa realtà, come dovrebbe essere ogni buon cristiano. Ha fatto anche una lettera, l'ha Laudato Si. Ora, cari cristiani, tutto questo è ottimo. Vi invito però a fare un altro passo di riflessione. Ci accorgiamo che è in atto nel mondo un peggioramento globale del clima umano e spirituale? Che anch'esso è causato dal consumo dissennato delle risorse umane e spirituali, dall'abbandono di tanti valori che hanno costituito lo zoccolo duro dei nostri vecchi? La gente lo dice, no, non c'è più valori, sta crollando tutto, e forse non ci accorgiamo che questo sta avvenendo anche a livello di fede, di vita spirituale. Papa San Giovanni Paolo II e poi anche Papa Benedetto hanno fatto ripetutamente questa affermazione. È in atto una apostasia silenziosa e strisciante dell'Europa, del mondo occidentale. È in atto un tradimento, un'apostasia, della propria fede, delle proprie radici cristiane, ed è un tradimento silenzioso e strisciante. Sembra non accorgersi perché è strisciante e nessuno reclama, nessuno dice che non va bene, che bisogna ribellarsi. Qualcuno potrebbe dire: vabbè, e allora si vive ugualmente bene anche senza la fede. C'è una grande maggioranza nel mondo occidentale che vive senza Dio e vive benone, dicono. Ma siamo proprio sicuri? Io vorrei con voi, cari cristiani, in questa giornata del Venerdì Santo, riflettere esattamente su questo. Siamo così sicuri che si può uccidere Dio, che si può abolire Dio dal nostro clima, dal nostro orizzonte, e vivere ugualmente bene? Certo, se io guardo una nave in mezzo al mare, anche se non avesse il timone, anche se avessi i motori in avaria, galleggia, tiene il mare. Con un po' di fatica quando si alzano le tempeste marine, però sta a galla. Già, ma senza timone dove va? Se è partita da un porto è perché era indirizzata a un approdo. Ci arriverà mai? Certamente no, perché le correnti marine la porteranno dove vogliono loro. Non vi sembra, cari cristiani, che anche per l'uomo sia così? Si vive ugualmente senza Dio, quanta poca gente nella nostra comunità viene in chiesa, quanta poca gente prega. Io personalmente sono scandalizzato dalla benedico voi che siete presenti, ma ero abituato in chiesa ad avere 600-700 persone a queste celebrazioni. Ero abituato a vedere gente che si pigliava, magari c'è anche tra di voi, una mezza giornata di ferie per partecipare alla celebrazione della Passione di Gesù Cristo, che non aveva paura di fare chilometri per spostarsi da una chiesa all'altra per venire alla messa in Cena Domini. Ci accorgiamo, amici, che le nostre comunità che hanno edificato queste chiese belle, tenute bene, ci accorgiamo che si sta mangiando fuori queste risorse non rinnovabili che sono la nostra fede e i nostri valori cristiani? Ma ci meravigliamo, amici, che a Bergamo sia stata venduta all'asta una chiesa, la chiesa dell'Ospedale Vecchio, l'avrete sentito, e l'hanno comperata i musulmani per farci una moschea. Ma dove? Nel nord Italia, nella cristianissima Bergamo. Quando si sono accorti della gaffe, la stanno ricomprando, riprendendo indietro. Ma dirà qualcosa questo fatto o no? Che neanche si sono accorti. Dirà qualcosa che magari l'oratorio è aperto al giovedì sera per un'assemblea di condominio, quando noi facciamo la messa in Cena Domini? Dirà qualcosa che un parrocchiano nostro mi dice che un assessore che viene dall'ambiente oratoriano in una grossa città qui vicina ha indetto una riunione al Venerdì Santo alle 15:30? Non ci dice niente questo, amici? O non diciamo, ahi, mi fa male? Io protesto, magari vi scandalizzo, ma dico, mi fa male tutto questo alla mia fede. Fa male al mio popolo cristiano. Altro che mangiarci fuori le risorse energetiche non rinnovabili, altro il clima che cambia. Togli Dio. E dove va la tua nave? Il tuo destino? È partito dal porto della nascita, naviga il mare della vita, ma a quale prodo arriverà? A quale porto? Certamente il porto della morte, ma sarà un porto attrezzato per la tua famiglia, per te stesso, caro cristiano? E ci stai navigando bene? La rotta chi te la traccia? Il caso? Diceva Solženicyn, quel grande scrittore russo, il caso è il dio degli sciocchi. Togli Dio, che metà hai? Io sono scandalizzato da incontrare e confessare bambini di quarta elementare che non sanno il Padre Nostro e l'Ave Maria. Qualcuno addirittura, udite, udite, neanche il segno di croce. Ma dove andiamo, amici? E non dobbiamo dire, ahi, mi fa male? Ci stiamo bruciando le nostre risorse spirituali fondamentali? Diceva un autore, un padre della Chiesa, credo che fosse San Giovanni Damasceno, un padre della Chiesa, se tu togli Dio l'uomo diventa come una bestia. Usa questo termine, come una bestia. Nasce, cresce, si accoppia, lavora, partorisce, piglia legnate sul groppone, muore e il suo cadavere è buttato via come una bestia. Non è forse così ancora? Si nasce, la società ti sfrutta mica male, finché gli servi ti fa lavorare, poi ti dà una pedata laggiù e ti dice non ho bisogno di te. Ma come, ho 48 anni e non ho bisogno di te. Si è come una bestia, amici, si è come una nave senza timone. Se Dio non è posto al fondamento non solo della nostra vita personale, ma anche della nostra vita di convivenza, della nostra vita di società e della nostra vita parrocchiale. Dopo queste cose, che credo sia difficile smentire, vorrei dirvi, cari cristiani, e allora in questo Venerdì Santo cosa c'entra, Don Ambrogio, tutto questo discorso? C'entra, cari amici, perché vi dico che oggi, ma anche domani, vi invito a venire in chiesa da soli, alla spicciolata. Venite a baciare il crocifisso e a guardare il crocifisso. Perché è il nostro Dio che muore, ma è solo per 3 giorni, poi risorge. Abbiamo bisogno di guardare il crocifisso. Quando usciremo da questa celebrazione, i chierichetti vi regaleranno una bellissima foto che Don Fabio ha fatto stampare, il volto del crocifisso. Prendetela, tenetela cara, portatela a casa. Ma dirò di più, se avete dimestichezza con il computer, entrate a cercare delle immagini. In rete trovate delle bellissime immagini dei bellissimi volti del crocifisso. Stampateli a colori su un foglio grande e poi tenetevelo in camera vostra. Io ebbi già modo in una domenica di fare questo pensiero, ma lo ripeto oggi. Una mia parrocchiana tornata dall'ospedale mi scrisse una lettera e disse: Don Ambrogio, la prego di renderla comune al cappellano dell'ospedale e al general manager che guidava quella struttura ospedaliera, ringraziandoli che nelle camere di ospedale c'è ancora il crocifisso, ma non appeso sopra il letto del paziente, ma appeso di fronte. Se lei sapesse com'è stato prezioso per me, perché sa, finché al pomeriggio c'era gente che veniva a trovarmi, io mi dimenticavo della mia situazione, del mio male, ma poi la gente andava a casa e io restavo da sola. E alla sera e di notte, quanti colloqui silenziosi ho fatto con quel crocifisso. Don Ambrogio, ringrazi coloro che hanno messo il crocifisso nei luoghi di sofferenza. Si fanno polemiche sul crocifisso nei luoghi pubblici, sì, certe volte proprio maltrattato, come in alcune scuole. Però pensiamoci bene prima di toglierlo, soprattutto dai luoghi di sofferenza. E controlliamo se in casa nostra c'è un bel crocifisso. Per favore, non prendete quei crocifissi grandi, una spanna, col Gesù Cristo di plastica, fatti in Cina. Perché magari avete un servizio di cristallo o di porcellana, ma sulle cose di fede si va al risparmio. Non compratevi neanche un crocifisso del 1700 per mostrarlo ai vicini. Ha visto, questo è un pezzo d'arte, mi è costato un occhio della testa. Non lo preghi mai. E neanche prendete come regalo da un fabbro o da un vostro amico un crocifisso fatto con filo di ferro o con dei chiodi messi insieme che hanno vagamente la forma di un crocifisso, ma quello tu non lo pregherai mai. Prendete un bel crocifisso grande. Prendetevi dal computer una bella foto di un crocifisso di Giotto o del Beato Angelico e tenetelo sotto gli occhi e guardatelo. E riprendiamo nelle nostre case a guardare in faccia il crocifisso. Bacialo, pregalo, perché se lui è il tuo timone, se lui è la tua bussola, tu sai cosa troverai alla fine della tua vita, se no troverai, si chiama così, una struttura sanitaria dove ti mettono, ti addormentano, si chiama così oggi, no? Coma farmacologico, o si chiama una sedazione profonda, che vuol dire che non ti svegli più. Dicono che non soffrirai, speriamo. Che il Signore ci conceda di vivere e di morire con gli occhi aperti e di baciare il crocifisso. Io non finirei mai di parlarvi, cari amici. Ho tante esperienze di vita, si diventa vecchi, ma si diventa anche un pochino più saggi. Una donna di 50 anni vede suo papà che si avvia verso la morte, ma è lì con gli occhi aperti. E allora questa donna, vedendo questa sofferenza, prende il crocifisso che aveva sul comò, perché una volta nella lista di nozze, che non si chiamava lista di nozze, ma si faceva ugualmente i regali alla giovane sposa, si usava regalare anche un crocifisso. Io ce l'ho ancora, quello di mia nonna, crocifisso da poco, ma che sta in piedi perché ha una base, che aveva ricevuto come regalo di nozze. E prende questo crocifisso, si avvicina a suo papà, glielo pone lì davanti al viso, il papà con le due mani lo branca, lo bacia, gli dà tre bacioni. Brava figlia, hai aiutato tuo papà a riconoscere la sua destinazione finale.